prepotente e vanagloriosa, trionfatrice per forza. E se non fosse piaciuta, guardava il padre, impaziente di tutte quelle parole, e una diversa e schietta ragione di umiltà la invadeva, talché la notte, ridotta ai suoi umani motivi di tristezza, tornava a salutare senza bruciore Antonio e la sua amoretta, riaccoglieva maternamente in grembo Porziella, chiedeva soprattutto perdono a Francesco e provava il rimorso di non averglielo fatto capire quanto gli fosse legata. Ora sapeva come si fa testamento in tutta pace, pensando a chi ci è caro e seguiterà, come giusto, a vivere. Per sé teneva covata in petto una chiara voglia di dipingere, sola e contenta di saperlo fare finché fosse in tempo. A che scopo dunque questa presentazione alla regina? Fu a un pelo dal pensarlo ad alta voce. Una sera, mentre serviva il padre il montone bollito, la vivanda che lui esecrava, quando Orazio si alza da tavola, si avvia a uno stipo, fruga a lungo e poi ritorna sotto il lume, reggendo in mano un alberello. Lo guardò, lo sperò, lo strappò, lo annusò e lo posò sul desco accanto al piatto della figlia. «Questa lacca», disse, «non ce l'hanno in Anversa e per le ombre della seta azzurra fa miracoli. Enrichetta, vedrai, veste di azzurro». Strizzò l'occhio e si mise a mangiare così contento che ingollava Montone senza accorgersene. Bisognò la domenica innanzi la cerimonia andare alla messa solenne nella cappella della regina, tra francesi, spagnoli e italiani, pochi questi ultimi, che gli italiani a Londra fanno, come Orazio, a meno della messa. Artemisia ci andò a piedi, con un bel sole che non pareva vero, e i borghesi di Londra si assiepavano a guardare le livree dei papisti, più accigliati che divertiti. Lei ebbe posto nel seguito di Lady Arabella, che andava a messa per contraddire, scollata, con vesti trinciate all'antica e il ventaglio in mano. Stretta fra due bellezze inglesi, l'italiana sentiva l'oro pallido della propria faccia illividire a contrasto di quei due fiori d'argento, chiare come luna le gote, la lanugine, le chiome, rigidi lo sboccio delle carni e l'espressione. Parlavano fra loro senza muovere il capo e una ebbe un lampo di vivacità ghiaccia mentre salutava due giovanissimi fratelli o cugini, tre gentiluomini, anch'essi appaiati e superbi, color grano pallido, in mantelli grigi, la bocca tumida e scarlatta. Da quelle fronti di neve, che non si chinavano affatto, scintillavano per moti lievissimi domande, risposte, scherni crudeli e quasi frenetiche incitazioni, come mute urla di caccia. Poi ciascuno distolse il bianco sguardo altrove. Non restava che fissare, come i più, il palchetto reale, dove una dama grassissima, in porpora ed ermellino, pareva dormisse affacciata alle sue collane. Due nani vecchi e tristi, maschio e femmina, dal frusto costume bizzarro, mostravano di servirla di libro e di cuscini. Essa lasciava fare, dondolando impercettibilmente il busto. Tra le mani di gesso, poggiate sullo stomaco, scorreva rapido un rosario di perle grosse, perle false, gemme false, diceva la gente. Tutto falso, aveva intorno la vecchia madre della regina d'Inghilterra e del re di Francia, scacciata dal figlio, mal sopportata qui. Mangia, dicono, gran quantità di confetture che non le basta l'assegno per tali spese sciocche. A questa corte se ne ride. Era la Gran Maria, potente, estrosa, schizzinosa, la più ricca principessa di Toscana, la più fastosa regina d'Europa. A Firenze si nominava come dea. Chi potesse piacerle era beato, sicuro di collocarsi da principe in Parigi. Forzieri colmi di gioielli, mille vesti diamantate che non giungeva a cambiarle in un anno. Ora una cassa di stracci e questa porpora polverosa e funerea fra il guizzar cilestrino dei lindi serpenti inglesi. Non le resta che la gola. Da regina di Francia l'italiana, e dovrà presto sloggiare. Re Carlo non la tollera più. Sospirava Artemisia e in un rimescolio poco solenne fece il suo ingresso Enrichetta. Marciava alla scudiera, come avesse il frustino sulla coscia. Figurava senza collo, fra tutti quei riccioli finti. Dietro, le brache inciarpate dei francesi, rosse, bianche, giallette, le francesi dipinte, preti, frati in copia, con la cintola o senza, bianchi, neri, violetti e berrettini. L'inginocchiatoio era preparato per due, ma la regina ci prese posto sola. Dal palchetto il povero pappagallo purpureo non ebbe moto e pareva imbalsamato. Artemisia non riusciva a staccarne gli occhi. Tanti anni fa a Firenze la Torrigiani aveva detto, stolta e superba da non credere, non aveva che l'incarnato e ora tutta questa fortuna. La messa incominciò. Piegata sulla vita, la regina non aveva gambe, era tutta spalle, spalle da uomo di fatica, sotto quel capo minuto. Un grande spazio la divideva dai cortigiani, sicché anche lei, come la madre, pareva abbandonata e quasi schernita, sola, alla berlina. Sola però non la lasciarono il giorno dopo che Artemisia le fu presentata in quella sala mezzanella di poca luce, tutta incassettata di legname scuro alle pareti, sopravvi quadretti piccoli, queste anticaglie secche degli inglesi. Brulicavano intorno alla sovrana donne di qualità e donzelle, con tutti i frusci e i ticchetti delle loro mansioni, ma ogni quattro ci scoprivi una monaca linda e diligente, in grembiale come una fantesca. Giro giro, quasi sorvegliando e assediando quel nido femminile, uomini si pigiavano con un'ostinata urgenza di calabroni, e sette su tre erano preti, preti vestiti di corto ma ufficiosi come se celebrassero. Precedeva la pittrice un maggiordomo vecchissimo che strascicava i piedi. La seguiva un paggio cresciutello con le ginocchia nodose e scoperte e portava, avvolto in un drappo, il complimento di Artemisia, che era poi una sant'agata dalle poppe mozze, curiosa scelta di Orazio. Fendere la calca di una stanza reale serbando il contegno, domare l'eccitamento per un'occasione insigne, temperare umiltà con prestanza a questi fini si adoprava la Gentileschi. Ma dovette pensare a difendere i lembi della veste nera alla fiamminga, un dono del padre, che mai aveva incontrato tanta sgarbatezza. Irruenti saettavano per l'angusto luogo le iniziative, gli attacchi decisi, mille turgidi interessi. Facesse presto la virtuosa, nessuno ha tempo da perdere, ma a ciascuno la trafigge di un'occhiata cupidamente disattenta, perché mentre guarda non cessa di pensare ai fatti suoi. Le pestarono un piede, il ricamo di una manica le si impigliò, si sdrucì. Voltandosi, il maggiordomo ricurvo le faceva cenno di spicciarsi e lei incespicò, chinandosi a raccattare un guanto che già a 10 suole avevano calpestato. Un bollore, un vapore di corpi caldi e di respiri si condensava presso la finestra in aria rarefatta. Lì, in poco spazio insidiato, sedeva la regina. Era affiancata di donne, quattro vicinissime, ingombranti da meravigliarsi come le sopportasse, intente a pacifici lavori d'ago, e pareva che si trovassero a loro agio e nessuno le osservasse. In piedi dinanzi alla madre i regali fanciulli, pallidetti e carichi di sete, che lei andava aggiustando nelle sciarpe e sui collari, quasi non contenta di come fossero vestiti. Erano due femminette e il principe reale, non belli. Attraversò, ratturato dalla folla, un pretuccio dalla gorgiera indigente, e ora Enrichetta vergava un foglio sul ginocchio come un capitano in mezzo alla battaglia. «Vite, vite!» mormorò, e tutti poterono intendere quel mormorio. L'assemblea ne ondeggiò. Alzò gli occhi sbiaditi, arrossati, la regina, e il maggiordomo piegava il ginocchio, lo piegava Artemisia, il paggio svolgeva il complimento, la regina si levò in piedi e quasi non pareva. «Così venite da Italia», pronunciò tristemente, sillabando e strascicando la voce. Tossì. Per la terza volta Artemisia si inchinava. La tosse della regina era grassa, forse avrebbe spurgato. A terra, sostenuta dal piede forcuto di un arcolaio d'argento, la Sant'Agata, in stralucido, pareva corrucciata irrispettosamente. «Noi vogliamo», seguitava Enrichetta, agitando in cadenza benevola gli infiniti boccoli dell'acconciatura, «noi vogliamo che fate a noi il ritratto. letto. Finalmente gli occhi di acqua sporca si posarono sulla pittrice, ma con una fissità assente. E Artemisia non lo notò, tanto s'era commossa per quell'ombra d'italiano periclitante e come nebbioso. Una squisitezza le parve che avrebbe voluto assaporare a lungo, farselo ripetere. Ma a una regina bisogna rispondere subito e comincia battendole il cuore. Se l'eccelsitudine della maestà vostra è un ringraziamento preparato con cura, che non servirà mai, una francescana scalza, gonfia come una vescica, è scaturita accanto alla sovrana, si china, le bisbiglia all'orecchio, alza un dito quasi ammonitore, da predica, il suo rosario non finisce di tintinnare nel silenzio improvviso. Ale, ale, la interrompe Enrichetta, divenuta da cerea di un fosco purpureo fin sul collo macilento. Dura ancora un istante il silenzio dei cortigiani, ma tutti hanno inteso e assimilato l'ordine e tutti obbediscono con una destrezza che le pareti, il suolo, sembrano favorire. Una porta sola non può assorbire tanto prossimo. Affaticata e imperiosa, brancicando per farli avanzare le spalle dei suoi ragazzi, la regina s'è mossa. Cade uno sgabello, trabalza e si rovescia una cassetta piena di gomitoli, di nastri e fiori, oggetti che razzano intorno incalzando i cortigiani, e una rosa d'oro schizza ai piedi di Artemisia, ancora immobile per la sorpresa. Finì per chinarsi a raccoglierla. Ormai la saletta era vuota, una povera sala, in fin dei conti, senza magnificenza, col pavimento coperto di incannicciati che neanche una stalla. Si vedevano qua e là, come su un prato, carte a brandelli, un cappello malconcio, un fazzoletto e sino un libretto di devozione. Due cani piccoli e sperduti annusavano in giro senza abbaiare, raspavano, uno alzò la zampa contro una sedia rovesciata. L'arcolaio d'argento era strapiombato contro il muro sotto un ritratto orribile di Elisabetta Regina. Nessuna traccia della Sant'Agata e da sé Artemisia dove trovarsi la strada del ritorno. Le regalò la regina una scimmia piccola del suo serraglio, dove sono i leoni, in una gabbia ben lavorata. Morì di freddo. 4 gotti d'argento per birra col loro coperchio, 10 iarde, come qui dicono, di tela d'Olanda, un orologio, strumento ingegnoso. Il ritratto non era ancora cominciato. Della Sant'Agata nessun ringraziamento era giunto e questi doni arrivavano a capriccio e come per isbaglio. Alla fine uno staffiere portò un messaggio solenne e c'era scritto che intanto la signora Artemisia, in lettere rosse, scegliesse nel guardaroba reale l'abito per sua maestà, gli ornamenti, le gemme, sapesse dire se preferiva ritrarla da dea o eroina o santa, in che ora del giorno la luce era migliore, di che orientamento la stanza, di che misura la tela, a ciò si provvedesse alla cornice. Il messaggio fu portato e lasciato. A prendere la risposta venne una specie di dama sciamannona, rossa, pelata, imparruccata, con briciole di torta sulle labbra, e si tirava dietro una ragazzina melensa che era la principessa reale, in abito di velluto ciliegia, ma sporco. Laborioso fu il discorso, assistito da un interprete casuale, il dispensiere italiano Vincenzo Rocco. Intanto la ragazzina principessa arrotolava e nascondeva in petto una gala d'argento lasciata da Artemisia sul canterano, che finì in tamigi per pentimento la mattina dopo. Fu il 10 maggio che la regina sedette a Modella. Pioveva forte e duro sull'erba di smeraldo che Artemisia dovette attraversare per raggiungere il padiglione francese indicato all'ultimo dallo staffiere. Si bagnò i piedi e la bella veste alla fiamminga era tutta fradicia e fangosa quando ci entrò. Nel gabinetto, tappezzato di santi e reliquie, ma più di miniature di re Enrico, uno scomodo quasi militaresco dominava e la regina, vestita d'azzurro, aveva il viso come una pappa scotta. L'occhio sinistro non smetteva di lacrimarle, infiammato agli orli, e se l'asciugava con un bel fazzoletto. Vien buono l'alberello della lacca, pensa Artemisia per darsi animo, ma già l'ha colta quel presentimento insopportabile che a ogni nuovo lavoro d'impegno si ripete. Dipingerà anche questa volta il solito ritratto baldanzoso di cui è così facile gloriarsi, così difficile contentarsi. Come d'altronde meditare l'impianto e studiare il soggetto davanti a una regina in posa. Guai a non affidarsi alla vecchia bravura, al colpo di mano dell'effetto, guai a non recitare da virtuosa. E anche le parole si ripetono. Resti servita di girarsi, la maestà vostra, ma come non lasciarsi prendere alla vanità rischiosa di toccar la mano reale, di disporne i diti uno per uno intorno alla costola del libro. Lascia fare, Enrichetta, il suo cervello è lontano. E il suo viso è quello dei suoi 100 ritratti, affidato, sin da giovinetta, a una sorta di placidezza stagnante, dietro cui è facile nascondere i pensieri. La pelle è una membrana spessa e opaca, e la pittrice ne saggia il tono sulla lingua del pennello inquieto, bigio, cerussa, una punta di vermiglio, qualche colpo sulla fronte, sul mento, e poi subito a tempestare l'oltremarino della veste. Ci sarà una trovata in questo quadro, forse i grandi lo sanno, quando principiano a dipingere. Orazio lo sa, ma non Artemisia. Il suo impegno è oscuro, tenace, una scommessa sull'imprevisto, un'attenzione da giocatrice che aspetta la fortuna finché il mestiere prevalga. Il 110° ritratto della regina fu, a ore 18, il meccanismo che scatta e si richiude su chi l'ha inventato, un abbozzo che ormai bisognava sostenere e far gradire. Is your majesty tired? Così gli avevano insegnato, così disse Artemisia. Ma la regina non si mosse né rispose. Imbalsamata nella impalcatura delle sue spalle ossute, aveva abbassato le palpebre violette, forse dormiva. Alla luce di 24 torce stridenti sotto la pioggia, la sera stessa, re e regina partirono con poco bagaglio, molto disordine e confusione, scarso seguito. Chi diceva per Anton Kurt, chi per non so che. Si trovò che Artemisia era stata l'ultima a vederla sovrana, sicché non pochi, anche signori di rilievo che non la conoscevano, la fecero interrogare copertamente di che umore fosse la regina se avesse parlato di trasferirsi. Il ritratto abbozzato s'asciugava nel padiglione francese. I giardinieri sarchiavano le viole, sui prati saltavano i daini, barche e barchette dai gai colori passavano in coppia sul fiume che a Whitehall si faceva festa e fiera. Gran discorsi a Somerset House, nuova discordia fra Carlo e Enrichetta. La vecchia regina di Francia è scacciata, la figlia la seguirà. Basta con questi papisti e gesuiti e italiani. Anche Orazio Gentileschi ha fatto il loro gioco per 20 anni e ora questa sua figlia è venuta a prenderne il posto e a intrigare. Bella donna però, bellissima donna. Non seppe Artemisia di questa sua fama scandalosa, risvegliatasi tardivamente in corte e che ora culminava. Non seppe che Sir Henrik le aveva dedicato il sonetto, assai gustato dagli intendenti, e che cominciava: Artemisia, who is she? Né che Giacobbe Mirelfeld le facesse il ritratto di nascosto. Lady Arabella, che non ha seguito i sovrani, sale da Orazio ogni giorno, ma poco sicura di lui, come egli di lei d'altronde, sicura di Artemisia, ma accenni, senza parlarle, con rapidi sorrisi sibillini, mentre le burne a mano ducale s'addomestica, quasi per confidenza accordata, e si sofferma sulla spalla, intorno alla vita, sul seno di Artemisia. Costei non ha altra difesa che il non intender la lingua e abbassa gli occhi come una ragazza. Gran risate di Milady. Baffi di stoppa, parrucche ad arte arruffate come soffiate nel vetro, sguardi di infernale alterigia e un'arguzia di ghiaccio su labbra sottili, tali i seguaci di Lady Arabella che spesso la accompagnano e con lei assediano la pittrice italiana, che non sfugge ma tace e pensa ad animali pazzi, a infuocati favolosi draghi, padroni di questa terra pallida. Una proposta ricevette, formale, araldica, insolente, da tale Piers, mercante favorito e quasi nobile, di occhi piccoli, grasso naso e labbro leporino. Gradirebbe la signora un palazzo a Woolwich con giardino e 50 guinee l'anno? Fu proprio Lady Arabella a spiegargliela, con una mimica che neanche Tuzia si sarebbe permessa, così rigidamente espressiva. E fu del pari Lady Arabella, 40 anni dopo, che giunse a tarda vecchiaia, carica di belletto francese, a inventare di una pittrice venuta dall'Italia nel 40 che si dava a chi la volesse. Suo nipote, gentiluomo erudito, giurò di conoscerne gli amanti, nome per nome. Scrisse fra i primi quello di Francesco Romanelli, pittore che nel 40 faceva gli orecchioni ai coronari. Ma ormai la situazione di straniera è voltata a innocenza, sicché questa fama fuori di stagione non desta in Artemisia che un fastidio soffocato e una ritenutezza malinconica. Potrebbe, se volesse, tentar l'assalto e la conquista di un mondo. Non ne ha voglia. Degli omaggi ambigui che non può ignorare, si intristisce ed ecco si mette a riparlare di notte con Antonio e a singhiozzare. Gli dice: tu che mi stimavi la più bella e la più brava, tu che dovevi accompagnarmi e gradirmi fino alla morte. Di nuovo si sveglia soffocando di pena e la luna di qui non è luna, il cielo non è cielo se si affaccia alla finestra per respirare, la nebbiolina beffarda sui prati, le collinette e valloncelli, disperata minutezza di un infinito. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.